αγάπη και όχι γραντιά. La candela naso sparirà quando crescerai. Agati, l'ultima di sei, scugnizzi che da soli a pane e sole vengono su, Napoli sei tu. Sportello di un tassì, poco per star qui. Oh, Agati, ti rivedrò sul divano triste di un piano bar, oppure che rivesti una bambina bruna che io scambierò per te. Tagliato per un condominio in più, io che ci faccio qui?